Il punto di Stefano Folli. Se è davvero come sembra, la prima mossa dei neopresidenti delle due Camere è abile e significativa. Quello che non è stato fatto per un'intera legislatura si fa in un giorno. Cominciare a tagliare sul serio i costi della politica, dando l'esempio dall'alto, dagli stipendi dei due presidenti. Basta questo per concludere che il sistema politico è risanato? Certo che no. Le riforme attese sono numerose e quasi sempre molto complesse, ma occorreva dare un segno di buon senso e di moralità, ed è quello che stavolta si intende fare. In fondo, evitare che il movimento di Grillo si trasformi in una forza antisistema e destabilizzante significa proprio questo, accettarne e assorbirne le richieste più legittime. Ma oggi comincia l'impegno più difficile, dare un governo al Paese. E gli occhi sono rivolti al Quirinale per l'ultimo gravoso compito che Napolitano si sta caricando sulle spalle.